Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Anna Maria Pasquali del collettivo Melcana per parlare del documentario Fuori Campo, in uscita in sala il 18 ottobre con distribuzione indipendente. Anna Maria, ben trovata. Grazie anche a te. Cosa racconta questo lavoro? Racconta della vita di tre ragazzi che fanno parte di una squadra di calcio composta esclusivamente da rifugiati e richiedenti asilo che si chiama Liberi Nantes. E attraverso la squadra, quindi il gioco del calcio, il nostro obiettivo era raccontare ciò che c'è fuori dal campo, anche per questo il titolo Fuori Campo, e quindi seguire le vite dei ragazzi nei loro percorsi diversi. Ne abbiamo scelti tre proprio per le condizioni diverse del loro viaggio, con tre stati di provenienza diversi: c'è Cicci che viene dalla Nigeria, Sek dal Senegal e Mohamed dal Gambia. Quindi tramite loro, tramite la metafora del calcio, e riuscire a capire cosa fanno i ragazzi una volta arrivati in Italia. Ci racconti anche dell'esperienza di questa squadra? Questa squadra è molto particolare perché gioca nel campionato di Serie C qui a Roma, però è fuori dal, gioca nel campionato ma fuori dal campionato, nel senso acquistano i punteggi, le vittorie della squadra nella lista del campionato normale, però anche nel tabellone c'è un asterisco che li mette fuori dalla lista ufficiale, perché loro, non avendo i documenti necessari, non riescono ad ottenere i premi e a salire nella classifica. Quindi giocano normalmente durante l'anno, però sono al lato della classifica ufficiale. È un po' un paradosso, sì. E che è quello che appunto noi abbiamo trovato fin dall'inizio come qualcosa da approfondire e capire. Questo paradosso in prospettiva come e se sarà superabile? Allora, innanzitutto la cosa più importante della condizione dei ragazzi che sono qui è il rilascio dei documenti. Senza, sì, il documento non riescono proprio a fare nulla, neanche, sì, il primo passo per l'inserimento, perché dopo i primi 6 mesi di accoglienza in un centro d'accoglienza appunto non c'è più speranza. Non avendo il permesso di soggiorno non possono accedere a nessun tipo di percorso lavorativo e abitativo, perché non manca la base da cui partire, manca una carta d'identità, manca un qualcosa per cui tu ti puoi iscrivere, puoi avere accesso a una strada verso la legalità. Quindi questo è, finché non si combatte questo tipo di blocco non riusciranno ad inserirsi, non riusciremo a fare un'accoglienza che si chiama con questo nome, appunto accoglienza. Dalle loro tre storie cosa emerge? Emergono i tre appunto stati d'animo che prendono anche i sottotitoli del film. Allora, la prima storia si chiama Attacco e parla di Cicci che è appena arrivato, quindi ancora in una fase molto euforica del suo percorso, con grandi speranze, e vuole raggiungere appunto un livello di giocatore di calcio professionale. E poi c'è la seconda storia che si chiama Centrocampo. Questi sono anche i ruoli che giocano nella squadra, eh? C'è appunto un parallelismo metaforico bellissimo. E il centrocampista è in una fase intermedia, sta finendo i mesi nel centro d'accoglienza e è in attesa del permesso di soggiorno, che alla fine del film infatti riuscirà ad avere. Quindi viviamo questo passaggio da dentro a fuori il centro d'accoglienza, infatti verrà poi ospitato in una occupazione abitativa, Acrobax, a Roma. Sì. E poi c'è il terzo personaggio, che in realtà è quello che è già uscito fuori da ogni politica di accoglienza e che ha la situazione un pochino peggiore, perché non riesce bene a percamenarsi nelle situazioni lavorative, non ha il documento, è in ricorso, sta facendo un ricorso anche legale. Lui è il portiere della squadra, quindi è in questo stato, diciamo, di difesa e sopravvivenza in questa nostra nazione. E rispetto all'esperienza del collettivo? L'esperienza è stata bellissima per due o tre motivi che secondo me sono molto casuali e particolari di un percorso formativo. Il film è il risultato di un percorso di master all'interno di Roma 3, il master di cinema documentario promosso dal CPA, il Centro di Produzione Audiovisive di Roma 3, con direttore e coordinatore Vito Zagarrio e Cristian Carmosino. era strutturato benissimo proprio tutto il percorso formativo. Soprattutto abbiamo avuto docenti che sono i migliori documentaristi presenti in Italia e produttivi in questi anni. Quindi avevamo nomi bellissimi come Costanza Quadriglio, Daniele Gaglianone, Beppe Leonetti al montaggio, Brunetti, Bertozzi, tutti professionisti che ci hanno aiutato moltissimo in tutte le fasi della costruzione del percorso, dalla scrittura alla regia al montaggio. Quindi è stata un'esperienza bellissima per i formatori, e poi il collettivo che si è creato ha mille sfaccettature, perché siamo 13 persone, di cui la metà più o meno tutti provenienti dal cinema, ma un'altra metà ha tutt'altra formazione. C'è per esempio un sociologo, una storica dell'arte, uno storico, una docente di teatro, un videoartista, un'antropologa che sono io. Quindi c'è stato questi vari punti di vista che hanno lavorato tutti su un tema e cercato un messaggio comune, un punto di vista per poter creare un messaggio. L'uscita con distribuzione indipendente? Alle 20:30 c'è la prima al Cinema Aquila. E ci saremo anche. Un'altra cosa volevo dire, importantissima secondo me in questo momento, che noi abbiamo girato il film e montato 2 anni fa e finito l'anno scorso, quando ancora non c'era, diciamo, un clima così tragico, diciamo. Ancora non c'era Salvini, ancora non c'era il fatto di Riace, ancora non c'era la chiusura dei porti. Quindi siamo anche noi stati, siamo meravigliati un po' della forza del film adesso, quindi non mentre lo facevamo, ma questa risonanza che avrà in questi giorni, cioè vederlo adesso ha tutto un altro sapore rispetto a quando noi lo abbiamo visto, perché è tutto molto più amplificato, e quindi vedere queste vite ci aiuta tantissimo a capire dove stiamo andando e cosa stiamo facendo. Allora, in chiusura ci lasci anche tutti i riferimenti web per saperne di più? Allora, per ora noi abbiamo una pagina Facebook, si chiama Fuori Campo, e la pagina della distribuzione, che è distribuzione indipendente, e anche una pagina del collettivo Melcanà. Okay. Diciamo che da qui avremo ulteriori sviluppi, perché stiamo riunendo per fare un altro progetto, e quindi ci renderemo visibili in maniera un pochino più forte. Allora, un saluto e un ringraziamento ad Anna Maria Pasquali del collettivo Melcanà, che firma la regia del documentario Fuori Campo, in uscita in sala con distribuzione indipendente il 18 ottobre. Anna Maria, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, grazie mille. Grazie. Ciao. A voi, a presto. Nadia Pizzuti, che è una delle curatrici dell'iniziativa nella quale sarà proiettato il film Fest of Duty, la festa del dovere, di Firuzeh Khosrowani a Roma, la Casa Internazionale delle Donne, il 18 ottobre. Nadia, ben trovata. Buongiorno. Ci racconti di questa giornata? Allora, proietteremo alla presenza della regista, che arriva da Teheran. Questo documentario, appunto, come ho detto, si chiama Festa del Dovere. Cos'è la Festa del Dovere? È una cerimonia prevista, non obbligatoria, ma insomma prevista in Iran per le ragazzine che compiono 9 anni. Perché in Iran a 9 anni si considera che una bambina sia matura, mentre per i ragazzi l'età della pubertà è di 14 anni, quindi c'è un'enorme differenza. Questa festa che si vede nel film, cioè la regista, partendo da questa festa, prendendo spunto da questa cerimonia, segue due cuginette che hanno appunto 9 anni inizialmente, e poi le riprende quando hanno ancora 17 anni. Quindi quando poi cominciano a fare delle scelte, no? E si vede la differenza, il differente impatto di questo indottrinamento religioso su di loro. Quindi se loro appartengono a 2 famiglie, perché sono una famiglia unica, ma sono molto diverse, una più laica, diremmo noi, e l'altra più osservante, anzi strettamente osservante, e quindi si vede che pian piano queste ragazze fanno delle scelte. Una, per esempio, per fare un esempio concreto, davanti alla macchina da presa

Lorenzo Rizzo, regista del documentario Ciro Principessa, il film che sarà presentato a Roma al Giardino Liberato il prossimo 20 ottobre. Enzo, ben trovato. Buongiorno a voi. Lo raccontiamo? Lo presentiamo? Sì, volentieri. Il titolo in realtà è La festa di Ciro, il film documentario che abbiamo prodotto insieme al comitato di quartiere della Certosa è un racconto che parte dalla descrizione proprio della costruzione della festa per Ciro Principessa, che nasce 10 anni fa. Okay. E attraverso le fasi che portano queste decine di compagni e compagne, anche cittadine e cittadini della Certosa, nel percorso appunto della costruzione della festa dal 20 aprile, il giorno in cui si fa la commemorazione della data della ricorrenza di questo assassinio, che ricordiamo Ciro Principessa era un ragazzo di 23 anni che è stato ucciso da un fascista dentro una sezione del PC a Torpignattara senza alcuna colluttazione, cioè l'assassino era entrato per uccidere chiunque si fosse trovato dentro questo luogo popolare, insomma, della Torpignattara popolare di fine gli anni 70. E da 10 anni un gruppo di cittadini del quartiere in cui Ciro Principessa viveva organizzano per ricordarlo una festa che coinvolge tutto il quartiere. Per chi non conosce la Certosa, che è il quartiere di Ciro Principessa, è fondamentalmente una piccola enclave che si trova su una collinetta a Torpignattara, delimitata, gli ingressi sono delimitati da due strade e si snoda su Piede Savorgnano. È proprio un piccolo paese dentro la metropoli. Sì, sì. E la festa è un momento, secondo me, straordinario che si svolge da 10 anni in questo posto, perché è riuscito a trasformare un momento tragico, un evento luttuoso, in un momento di festa, di partecipazione, creativo, che coinvolge gli abitanti dal più vecchio ai bambini del quartiere, che ormai la sentono come la festa del santo quasi, a tutti gli artisti, i comitati, le associazioni che ritrovano in quel territorio un luogo di cittadinanza, no? di un dibattito possibile aperto dentro la sinistra. Da qualche anno addirittura sono due bandiere rosse che limitano il quartiere, che sono messi in dei posti non sedi, no? Una è in piazza proprio, una è sul giardino, e nessuno ha mai toccato, nessuno ha mai provato a mettere anche solo in discussione la presenza della bandiera, che per carità è solo un simbolo, però senza velleità, no? Non è velleità, è proprio un segno sincero di un territorio che è sempre stato caratterizzato da una presenza popolare, operaia, di lavoratori di sinistra. Allora, un quartiere che si trasforma, e il film pone anche l'accento su queste trasformazioni che sono inevitabili. Sì. Enzo, è una ricorrenza che c'è sempre stata o è una memoria che è stata recuperata negli anni? È una memoria che è stata recuperata. È una memoria che è stata recuperata perché il Circuito è stato ucciso nel 79, per 30 anni è caduto nel dimenticatoio, perché l'organizzazione di riferimento del PC ha messo non solo di ricordare il Ciro Principessa, ma ha posto nel dimenticatoio tutta una parte della propria coscienza e della propria memoria. Però nel 2009 questa trasformazione è già in atto del quartiere, quindi in un qualche maniera parte della gentrificazione, cominciata già una decina di anni fa, ha portato anche dei nuovi abitanti nel quartiere, tra questi diversi giovani compagni che venivano da esperienze più diverse, dai collettivi piuttosto che da centri sociali o altro, e hanno deciso di incontrarsi con questa vecchia generazione, anche loro di, come loro si definiscono, orfani del PC, cioè, hanno questo sentimento di mancanza di una direzione, di un orientamento, e in questo disorientamento ha creato un incontro fattivo, creativo, che è stato appunto la creazione e del comitato di quartiere e della festa di Ciro, come luoghi laici di confronto e di dove si dà la possibilità di seminare qualcosa per il futuro. Enzo, quante testimonianze hai messo insieme e che ritratto ne emerge, se ne emerge una memoria rispetto alla figura proprio di Ciro? Il film non voleva essere un memorial di Ciro Principessa. 10 anni fa, per la costruzione della festa, avevamo fatto un cortometraggio insieme a Francesca Bracci che si chiama Appunti per un film su Ciro Principessa, e che raccontava la vicenda, come era andato proprio da un punto di vista filologico quasi, momento per momento. Questo voleva essere invece una sintesi, un bilancio di un intervento popolare in un territorio, sì. Un confronto tra le generazioni che lo animano, una serie di interrogativi, ci sono più domande che risposte nel film su come un intervento di sinistra su un territorio si trova davanti a degli interrogativi che sono la capacità di creazione, di far partecipare i giovani, dell'esaurimento delle energie anche delle vecchie generazioni che non trovano gli strumenti o non trovano a volte anche le soddisfazioni delle conquiste che ottengono anche con delle lotte importanti. Per esempio hanno occupato il comitato di quartiere, ha occupato questo parco, questo giardino liberato che era una delle tante compensazioni di epoca veltroniana, fate i parcheggi e poi fate il parchetto sopra, ecco il parchetto per l'ennesima volta non era stato fatto e il comitato di quartiere ha fatto un intervento, una lotta che è durata più di 2 anni e che si è conclusa con l'occupazione, dopo aver richiesto che il comune si prendesse in carico la gestione di un bene comune, di uno spazio pubblico, non avendolo fatto il comitato di quartiere si è assunta questa responsabilità di occupare un posto, di gestirlo, di tenerlo aperto, pulito per i bambini, le signore, le donne, gli abitanti del quartiere, alle iniziative di socialità, che è un altro dato che emerge, che a me interessava far emergere nel film, che in questo territorio si lavora, diciamo, come obiettivo sicuramente chiaro è quello di tenere aperta la possibilità di essere una società, una comunità aperta, una comunità in confronto, e i momenti di socialità sono una caratteristica di ciò che succede in Certosa. Quindi a quello che mi dici, un momento di ricordo è diventato anche strumento di ricostruzione di una comunità in qualche modo. Sì, esattamente. E una delle cose che mi ha sempre colpito è che anche la famiglia, i fratelli e la sorella di Ciro Principessa partecipano, inorgoglisce molto, tra virgolette, diciamo, sì, che sì. La memoria del fratello sia si perpetui in una ricerca di miglioramento. E loro, sì. E questa è una cosa che loro ripetono spesso con gli amici che l'hanno conosciuto, cioè che Ciro Principessa, che aveva da poco intrapreso un percorso di coscienza politica, sì. In quel momento, venendo invece dal quartiere, dalla borgata, da fenomeni anche di vicini all'illegalità, no? Ha cercato nella politica un percorso di riscatto, di miglioramento, così sì. Come migliaia di altri giovani hanno fatto nella stagione degli anni 70. Enzo, in chiusura ci lasci anche dei riferimenti internet per saperne di più sia sul documentario che sull'evento del 20 ottobre? Trovate tutto sulla pagina Facebook del Comitato della Certosa. Comitato della Certosa su Facebook, ci sono tutti gli aggiornamenti del caso. Aspettiamo sabato 20 al Giardino Liberato di Galatea. Benissimo, appuntamento con il documentario La Festa di Ciro. Un saluto e un ringraziamento al regista Enzo Rizzo. Enzo, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Ciao. Con Arianna Marelli, sceneggiatrice del film Klimt e Schiele, Eros e Psiche, di Michele Malli, in uscita in sala dal 22 al 24 ottobre. Arianna, ben trovata. Ciao, grazie per l'invito. Descriviamo intanto questo film, come lo racconteresti? Klimt e Schiele, Eros e Psiche, che ho scritto insieme al regista Michele Malli, che ha avuto anche la prima idea e che è stato coprodotto da Credit Produzioni e Nexo Digital, è un po' un grande ritratto della Vienna di inizio Novecento. Sicuramente i nostri due protagonisti sono Klimt e Schiele, che hanno in quegli anni rivoluzionato veramente il sentimento dell'arte e ponendo tante questioni che sentiamo ancora oggi, però non ci sono solo loro. In quel momento a Vienna veramente tutti i saperi venivano rivoluzionati. Ovviamente Sigmund Freud scopriva l'inconscio, quindi la nascita della psicoanalisi, ma anche in letteratura, nella musica, nell'architettura, nel design. C'era un sentimento del nuovo, un nuovo più inquieto, diciamo, che superava la Vienna imperiale, se vogliamo, dei decenni precedenti, e che veramente compone un quadro straordinario e molto vicino a noi. Ecco, è stato un po' questo il nocciolo, cioè noi abbiamo scoperto che in questi protagonisti le domande, le inquietudini, i tormenti sono in fondo i nostri, ecco, sono un po' i nostri fratelli maggiori. Sì. Allora, mi dicevi che nasce da un'idea di Michele, ecco, com'è l'origine di questo lavoro e come ci sei entrata nel progetto? C'è un punto di inizio che è un po' un'occasione, diciamo, esterna, cioè sono quest'anno, nel 2018, i 100 anni dalla morte di Klimt, Schiele, ma anche Koloman Moser, che era un pittore designer dell'epoca, e Otto Wagner, un importantissimo architetto. Quindi questi quattro maestri dell'arte muoiono insieme nello stesso anno, a pochi mesi di distanza. Noi siamo partiti da lì e ho lavorato con Michele fin da subito, ma anche tutti gli altri ragazzi, non so, Matteo Stoletsky, che è il direttore della fotografia, Alessio Ciccarese, che ha fatto insieme a Matteo gran parte delle riprese, Tommaso Zerbini, che ha fatto il suono in presa diretta, e poi Valentina Ghilotti, che ha fatto il montaggio. Diciamo che abbiamo lavorato tutti insieme un po' fin da subito insieme a Michele e abbiamo costruito questo grande affresco, ecco, come dicevo, avvalendoci anche della voce di molti intervistati, esperti, ma anche proprio persone che hanno un po' dedicato la loro vita allo studio di questo momento storico, ecco, e dei suoi protagonisti. Potrei citare, non so, Jane Callier, che è una grandiosa studiosa di Schiele, ma anche Alfred Weidinger, che è uno dei massimi esperti di Klimt. E poi abbiamo un personaggio che è geniale e insieme molto molto umano, Eric Kandel, che è un neuroscienziato, tra l'altro nel 2000 ha vinto il premio Nobel per la medicina, e che studia le interconnessioni fra arte, mente e cervello, è partito proprio da questi autori per le sue ricerche. Quindi, insomma, un personaggio particolare che è stato un piacere per noi incontrare da vicino, ecco. Oh, qualche indicazione già l'hai data, però nel complesso come è composto questo film? Noi partiamo, come dicevo, un po' dalla fine, cioè dalla morte, ma poi in realtà facciamo un grande salto indietro e cerchiamo di raccontare la vita di Klimt e di Schiele, un po' in parallelo, se vogliamo, anche se ovviamente i due appartengono a due generazioni diverse, cioè Klimt era nato negli anni 60 dell'Ottocento e invece Schiele è più giovane, è un allievo, nato nel 1890. Quindi diciamo, le loro due vite procedono un pochino in parallelo, con influssi anche reciproci, insomma, loro due, diciamo, però sono anche dei collettori dello spirito del tempo. Ecco quindi le aperture, diciamo, verso la psicoanalisi che loro non è detto avessero letto, quelle opere di Freud, ma sicuramente ne erano imbevuti, perché se ne parlava di queste nuove idee nei caffè, nei salon di Vienna. Quindi abbiamo cercato di ricostruire anche un po' l'ambiente che loro potevano aver vissuto. E poi comunque tutti questi personaggi si conoscevano, ci sono delle interconnessioni. Klimt, come ci spiegano i nostri intervistati, era interessato all'anatomia, per esempio, quindi ci si non so, c'è anche un filone scientifico, se vogliamo, non solo artistico, molto presente. Oppure, cosa vi posso citare, non so, Schönberg dipinge grazie a un giovane pittore, Richard Gerst, che è morto giovanissimo, suicida, e che possiamo addirittura considerare un proto-espressionista, cioè quasi un attimo prima di Schiele già lui dipingeva i tormenti dell'animo umano. Insomma, ci sono tante voci, ecco. Certo, Klimt e Schiele sono i due capisaldi, ecco, del nostro racconto. Certo. Personalmente, cosa apprezzi maggiormente di questi due artisti? Io sono un'appassionata d'arte, se no non farei questo lavoro, però questi due artisti proprio me li porto nel cuore da sempre, diciamo, fin da ragazzo, e trovo che a volte siano quasi commoventi, diciamo, da guardare, veramente ci smuovono dentro qualche cosa. Ma se ti dovessi dire, da un lato, per esempio, c'è un momento dove scoprirete che Schiele fa una sua, non so, magari sapete già, ma so, fa una sua interpretazione del bacio di Klimt, dirompente, sacrilega. Ecco, per esempio, lì, di fronte a questo quadro che si chiama Cardinale e Suora, due figure della Chiesa che si baciano nella stessa posizione di, delle figure del bacio di Klimt, devo dire che veramente ci si sente invasi e inquietati, perché poi guardando le espressioni dei volti, insomma, ci parlano ancora oggi. Di Klimt devo dire che la cosa che mi è piaciuta tantissimo è che, per esempio, il fregio di Beethoven, che è nel Palazzo della Successione, noi l'abbiamo, in genere si vede dal basso, no? Perché è un fregio in alto, noi l'abbiamo potuto vedere molto da vicino. Quindi a poter apprezzare anche proprio la materialità, sì. le pietre incastonate nella parete, insomma nella pittura, come insomma quel grande lavoratore di materiali che Klimt era, insomma, è riuscito a fare. Insomma, devo dire che per me è stato un ritrovarmi a casa da una parte, ma scoprire veramente molte cose nuove dall'altra, ecco. Considerato che di entrambi sono stati già realizzati dei film, ne avete tenuto conto e che ne pensate di quei lavori? Non per presunzione, ma abbiamo cercato un pochino di astrarci, diciamo, dal lavoro degli altri per poter fare una cosa nostra. Per esempio, il nostro non è una fiction, no? Non racconta la vita portando gli artisti come personaggi. Sì, è più proprio sì. Un film documentario che ha delle parti, come dire, filmiche, no? Con dei personaggi, ma non i nostri, non i soggetti di cui parliamo, ecco. Sì, sì, quindi sì. È un po' stato questo un approccio un pochino più distaccato, che però d'altro canto, secondo noi, restituisce forse in modo più preciso quel momento e ce lo fa capire meglio, ecco. Sì. Allora, il vostro lavoro rientra nel progetto più complessivo di Arte al Cinema, con un'uscita evento di 3 giorni. Ecco, ci racconti anche un po' di questo? Ma allora, di questo posso dire che intanto ovviamente ringrazio Anexo Digital che cura anche la distribuzione, perché ci ha dato veramente un grande spazio, grande fiducia, e è una cosa bellissima per noi, per 3D Produzioni, essere al cinema anche così a lungo. Credo che questi progetti, diciamo, avvicinino veramente l'arte alle persone in un modo, come dire, spontaneo, ecco, sì. Fresco, e che soprattutto abbiano questo pregio, cioè da un lato danno una spiegazione, danno un'esposizione, ma soprattutto ti fanno venire voglia di vedere le cose dal vero, ecco, dal vivo. Quindi forse è questa la cosa bella, che dopo essersi immersi, ecco, questo è il nostro desiderio, dopo essersi immersi in quella Vienna, forse lo spettatore avrà voglia di andarci e vedere veramente le opere, le strade, i posti, ecco, questa è un po' la speranza. Devo dire che trovo veramente meritorie queste iniziative, perché appunto avvicinano l'arte un po' a un pubblico molto eterogeneo, ecco, più ampio, certo di interessati, ma magari appunto fanno anche scoprire delle cose a persone che magari più giovani, per esempio, o così, insomma, che si avvicinano adesso. Allora, un saluto e un ringraziamento ad Arianna Marelli, sceneggiatrice del film Klimt e Schiele, Eros e Psiche di Michele Malli, in uscita in sala dal 22 al 24 ottobre. Arianna, un saluto, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, ciao a tutti. Alberto Bogo, regista del film Terror Takeaway, in uscita in sala il 24 ottobre come film evento di Halloween con Movie Day. Alberto, ben trovato. Ciao a tutti, molto piacere. Ci presenti il tuo film? Terror Takeaway è un film, come ho definito io, politico. Qualcuno ha definito il primo horror marxista, perché è un film, il primo film horror che affronta un po' il tema della crisi del lavoro in Italia sotto forma di horror comedy, slasher comedy, per cui è un film abbastanza anomalo per il panorama italiano,

piuttosto che stare a casa da soli o da sole, andate a conoscervi in una sala, mal che vada, se il film fa cagare incontrate l'anima gemella. E allora ho pensato che era una bella idea sociale, diciamo, ecco, per evitare che le persone si guardassero i film solo in streaming e a casa, e anche per giustificare il costo di un biglietto che secondo me è molto spesso è tanto e offre poco. In chiusura, Alberto, ci lasci anche dei riferimenti internet per saperne di più? Assolutamente. Allora, potete intanto andare a spulciare la pagina www.terrortakeaway.com, che tra l'altro è piena di contenuti estremamente divertenti. Se no, su movieday.it, scritto movie dai con la Y finale.it, per chi non è proprio un inglesista, andate a cercare Terror Takeaway, che è uno dei due film promosso da Movie Day, e lì trovate tutte le date delle anteprime e del film che esce il 31 ottobre, dove potete preacquistare i biglietti. Fatelo prima, perché se non raggiungiamo il quorum in determinate città il film non parte, per cui mi affido a voi. Allora, ricordiamo l'uscita in sala di Terror Takeaway, sì, il 24 ottobre come film evento di Halloween insieme a Movie Day. Un saluto e un ringraziamento al regista Alberto Bogo. Alberto, un saluto, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille ancora a voi per questo spazio. Un abbraccio a tutti da Genova. Con Alessandro Gaido, direttore della rassegna Movie Tellers, narrazioni cinematografiche, seconda edizione, in 25 città del Piemonte, 12 film. Alessandro, ben trovato. Ciao, ciao, ben trovati a voi. Allora, per chi non conoscesse questa rassegna, presentacela. Allora, questa rassegna nasce lo scorso anno su, diciamo, proposta della Regione Piemonte e in particolare con la collaborazione con la Film Commission Torino Piemonte, oltre a tutti gli enti del sistema cinema piemontese, a partire dal Museo Nazionale del Cinema. Ma ci sono due obiettivi principali di questa rassegna. Uno è appunto quello di promuovere e diffondere il cinema realizzato nella nostra regione o realizzato anche altrove, ma da case di produzione, registi, imprese torinesi e piemontesi. E qui appunto la selezione dei 12 lavori, 4 corti, 4 doc e 4 lunghi, che sono di questo ambito sostanzialmente. L'altro obiettivo, altrettanto importante, è quello di rivitalizzare, dare forza e sostenere le piccole sale, che sono poi dei veri e propri presidi non solo cinematografici ma anche culturali in tanti paesi e cittadine della nostra regione, come nel resto d'Italia peraltro. Quindi c'è un lavoro molto stretto con i proprietari, i gestori delle piccole sale locali, per creare un circuito alternativo che riesca anche un po' in qualche maniera a trapparli da questo circolo un po' vizioso della grande distribuzione, che molte volte purtroppo poi per necessità commerciali si rivela quasi un vincolo mortale, perché alcuni vincoli di distribuzione sui film più mainstream tante volte, invece di portare più pubblico, rischiano in queste piccole sale di andare a creare delle situazioni anomale, dove poi sono più alti i costi che il guadagno che hanno queste sale. Alessandro, per orientarci un po', come sarà strutturata la rassegna in ognuna delle 25 località? Sì, il modulo è pressoché identico in ognuna delle 25 località. Si parte intorno alle 18 con la proiezione del cortometraggio, a seguire il documentario, pausa molto importante con Slow Food, che appunto allestisce in ogni luogo una degustazione dei prodotti tipici locali, e poi in serata, a partire dalle 21, la proiezione del lungometraggio. Tutto questo sempre con la presentazione e la presenza di registi, sceneggiatori, lavoratori del cinema, insomma, che ci parlano delle opere che andremo a vedere. Dato che sono 4 blocchi, una settimana ogni blocco? ma in realtà i blocchi ruotano, abbiamo cercato comunque di fare dei passaggi che siano uguali per tutti i film, quindi sostanzialmente ogni film avrà 8 passaggi, okay. Poi varierà non tutte le settimane, magari c'è lo stesso blocco, però nel complesso del mese tutti i film avranno comunque 8 passaggi. Sì. Ci dai anche un bilancio della passata edizione? Sì, certo, ma la passata edizione insomma è stata stimolante, tant'è che appunto siamo partiti di gran lena per rinnovare questa. Noi siamo partiti lo scorso anno con il coinvolgimento di 13 città barra cinema, quest'anno appunto saliamo a 25 città, 26 cinema, perché nel caso di Cuneo saremo in 2 cinema diversi. Il pubblico ha risposto bene, anche adesso che stiamo girando già per le presentazioni nelle province piemontesi, c'è un buon ritorno del pubblico che già aveva partecipato alle iniziative. Chiaramente, essendo lo scorso anno la prima edizione, abbiamo avuto punte di 100-120 spettatori e altri luoghi dove è stato un po' più complesso e diciamo ci siamo però mai attestati al di sotto della media di 40-50 spettatori in ogni caso, che visti i tempi del cinema e visti i prodotti che sono anche molto particolari è un ottimo risultato. Mm-hmm. Alessandro, la situazione in Piemonte rispetto alla creatività e la produzione? Ma direi che il Piemonte da questo punto di vista è messo molto bene, perché avendo appunto questi grandi enti che sono poi anche enti nazionali con rapporti anche internazionali, a partire dal Museo Nazionale del Cinema, Torino Film Festival, la Film Commission, che riescono a costituire una buona rete di collaborazione, fa sì che ci sia anche un bel fermento dal punto di vista produttivo, dalla nascita di imprese che si occupano di cinema. In Piemonte in particolare abbiamo tante imprese che si occupano di documentari, abbiamo delle, diciamo, delle ottime case di produzione di documentari che poi vincono premi in Italia, all'estero. Quindi da questo punto di vista direi che siamo messi piuttosto bene. Mm-hmm. E rispetto invece alle monosala per i piccoli centri della provincia? Ma le monosale appunto soffrono, come dicevo prima, una situazione che peraltro è nazionale, basta poi vedere i dati, una situazione secondo me di passaggio storico. Credo che le monosale, lo vediamo appunto andando in giro per il Piemonte, debbano in qualche modo cambiare anche la loro mentalità. Il mondo è cambiato, sono arrivate le multisale, ma poi sono arrivati i Netflix, i Nexo, insomma quindi un mondo in trasformazione. Loro a mio parere devono convincere se stessi che sono qualcosa di diverso, non sono più l'Eldorado degli anni 60 e 70, diciamo il negozio che apriva la sala cinesca e faceva soldi incassando e sbigliettando, ma stanno diventando veri e propri presidi culturali e quindi devono aprire anche un po' la loro mentalità a 360 gradi, a realizzare iniziative che siano sì con il cinema al centro di tutto, ma che siano più cross mediali anche da questo punto di vista, che continuino però a essere la loro base fondamentale, che è quella del creare socialità in un luogo. Mm-hmm. In chiusura ci dai tutti i riferimenti web per seguire la programmazione? Certo, su tutti i social media, Facebook, Twitter, Instagram, diciamo scrivendo Piemonte Movie si trova tutto, il sito è www.piemontemovie.com. Perfetto, ricordiamo la seconda edizione di Movie Tellers, narrazioni cinematografiche, una rassegna in 25 luoghi del Piemonte, 12 film, 4 cortometraggi, 4 documentari e 4 lunghi di finzione. Un ringraziamento e un saluto ad Alessandro Gaido, direttore della rassegna. Alessandro, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie mille, a presto. Ok, andata, ti mando poi tutto il link con il podcast. Grazie mille. Ciao. Ciao, a presto, ciao. Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.